dal quale il problema non è quelli che vengono, ma i tanti che se ne vanno, che sono più di quelli che vengono. E guardate che in un piccolo comune il sindaco lo sa benissimo, perché non c'è possibilità più di investire fondi. Prima c'erano molti fondi, si facevano i debiti, assumevano i forestali e facevano questo. Adesso non c'è manco più questa possibilità. Noi stiamo combattendo con situazioni drammatiche, questi comuni si stanno isolando. Noi mandiamo i fondi europei perché non li spendiamo. Non li spendiamo perché li vogliamo, perché abbiamo anche una classe imprenditoriale, diciamola, che vuole i soldi senza fare progetti e senza innovazioni, perché i giovani belli li mandiamo da altre parti. Radure. Dirette streaming dagli eventi che colorano il tessuto multiculturale della Campania. Suelia è l'ultima nata nello Sprato Cerasi, una bimba che nasce qualche mese fa, una settimana prima che il comune concedesse la cittadinanza onoraria a tutti i bambini, non solo tutti i bambini dello Sprato, ma tutti i bambini stranieri che si trovano sul territorio di Cerasi. Quindi da qui la volontà di dare un messaggio anche politico importante del riconoscimento dopo il decreto sicurezza che c'è la perdita di qualunque diritto di cittadinanza. È vero che la cittadinanza onoraria non ha nessuna efficacia giuridica, però è anche vero che è un simbolo importante che dà alle persone la dignità e la possibilità di sentirsi parte di una comunità. La scommessa successiva era sicuramente quella di creare lavoro. Ceraso, voglio dire, soffre delle stesse problematiche che soffre tutto il sud Italia, quindi una disoccupazione. Qua appunto nel Cilento, no, immagino, non è una solo disoccupazione... Ceraso, c'è uno spopolamento fortissimo, forse... Lo spopolamento e la disoccupazione giovanile sono forse i due mali peggiori, no, dei nostri territori, e quindi la possibilità, la necessità di fare dei processi di integrazione che fossero reali. Tu dai la possibilità a una persona di autodeterminarsi quando gli dai la possibilità di lavorare, no? E quindi di decidere autonomamente se rimanere o meno sul territorio. E qui abbiamo... Quanti beneficiari ci sono? Noi abbiamo 20 beneficiari, sono 5 nuclei familiari. Poi riteniamo che è una sfida culturale, che poi ti devi necessariamente intersecare con belle persone come Emilio. Noi facciamo agricoltura, dal biodistretto possiamo sicuramente crescere. Quindi stiamo mettendo in moto, ne parlavo prima oggi proprio con Emilio, insieme a dei tecnici che abbiamo, sono persone competenti sull'argomento. Immaginavo di mettere insieme delle progettualità con dei fondi particolari, mette insieme delle progettualità che coinvolgono non solo la cooperativa e i beneficiari, ma devono coinvolgere il biodistretto e soprattutto le altre realtà del territorio, perché lì, se veramente riesci poi a condividere questo progetto e questo percorso con le altre realtà del territorio, essendo anche un po' da facilitatore, no? Riuscendo a portare qualcosa e non a chiedere solamente a un territorio, penso che il progetto possa essere vincente, perché si può creare veramente un senso di appartenenza comune. Voglio presentare un amico, che dice Raso. Ah, piacere, Giulio. Ciao. Salve. Lui è architetto e si occupa del biodistretto. Ma questo è il primo biodistretto in the world, nell'Italia. Sì, adesso è diventato... Biodistretto, cioè sarebbe? Biodistretto è un'associazione tra comuni, aziende agricole, cittadini, tecnici che si mettono insieme per promuovere lo sviluppo sostenibile partendo dall'agricoltura biologica, perché uno degli elementi fondamentali dell'inquinamento è l'agricoltura chimica. Quindi partendo da questo tu hai ambiente sano, cibo sano, e si promuove questo per diffonderlo nelle scuole, nelle mense scolastiche, stimolare il consumo di prodotti biologici e poi fare un turismo sostenibile, insomma, creare percorsi enogastronomici. Da questo che questa idea che è nata qui nel Cilento si è diffusa, è diventato un modello in Italia. Abbiamo codificato noi, è diventato un modello nazionale, adesso ci sono 30 in Italia già attivi, un'altra trentina in corso di attivazione. Poi abbiamo creato un'associazione internazionale che si chiama INNER e abbiamo cominciato a diffondere in Europa. È bello, dalla Slovacchia alla Svizzera, all'Austria, Francia, Portogallo, Spagna, Portogallo. Poi in Portogallo è diventata una politica nazionale del Ministero, che hanno messo dei fondi per lo sviluppo del biologico, mettendo la linea proprio per fare 10 biodistretti in Portogallo. Noi ne abbiamo fatti già 3, noi siamo stati lì una settimana e abbiamo fatto il forum mondiale dei biodistretti con la FAO, e la FAO l'ha preso come modello per, per i sistemi agroalimentari sostenibili. E qua quali comuni aderiscono? Tutti? Qua sono 38 che hanno fatto la delibera. 38 comuni. Da Scea, Ceraso, Vallo, Monte. E hanno delle linee guida che fanno una delibera in cui si impegnano a non usare più prodotti diserbanti nella cura del verde pubblico, OGM free, mensa scolastica biologica, insomma c'è una serie di cose interessanti da poter fare. Però a volte fanno le delibere ma non le leggono tanto, quindi dobbiamo fare un po' di azione più incisiva, di attività più forte, perché adesso sta cosa è diventata mondiale, però infatti ieri sera proprio eravamo ad Ascea, c'era proprio lui, e proprio questo ho sottolineato, i comuni dovrebbero farsi proprio un po' di più la iniziativa. Questa cosa ha scatenato un interesse, prima sono venuti i sindaci dalla Francia a visitare, poi c'è stato un gruppo di giapponesi, venne prima un professore che studia agricoltura biologica in Giappone insieme a due persone, e la guida che li accompagnava, che prima organizzava i tour in Lombardia e Piemonte, ha dirottato tutto nel Cilento, è venuto con un gruppo, mo è venuta e tornata per scrivere un libro sul biodistretto in giapponese e divulgarlo in Giappone, mo tornerà di nuovo, e poi è venuta sta ragazza stimolata da un norvegese che è il responsabile del programma OFSP, che sarebbe l'Organic Food Program europeo, che in pratica ha portato qui, ha stimolato sull'università tedesca, e hanno invitato una ragazza, chi voleva fare la tesi di laurea sul biodistretto, ed è venuta qui a fare la tesi di laurea sul biodistretto cilento, ci sta lavorando. Il giorno che ci ha salutato ha detto, sai, un mio amico che era stato in Italia mi ha detto, ma vuoi andare? Sei proprio sicuro? Guarda, in Italia sono razzisti, ti tratteranno male, non ti accoglieranno. E invece io sono stata trattata benissimo, voglio tornare qui, vorrei vivere qui. Perché poi l'ho messo pure su Facebook, è mezz'ora che sono qui e vorrei già vivere in Italia per sempre. L'operazione in Portogallo è nata dal fatto che venne un agronomo dal Portogallo, venne qui 3 mesi per fare la sua tesi di specializzazione su biodistretto, da questo l'hanno conosciuto, poi ci hanno chiamato, siamo andati, insomma è tutto un sistema che si sta allargando sempre di più. Adesso ci hanno chiesto di fare il prossimo forum mondiale in Brasile. Cioè è una cosa diventata, perché tu entri nella FAO diventa una cosa molto, molto interessante. Diventa planetaria. Quindi che altre attività, cioè come si legano i biodistretti a, tu parlavi di economia circolare. Quali sono, al di là delle aziende agricole che mi immagino hanno delle produzioni e dei canali privilegiati in qualche modo? L'azienda agricola biologica è quella che pratica l'economia circolare in maniera favolosa, perché parti dalla produzione e quello che rimane lo danno agli animali, il letame viene usato per il concime, quindi lì in pratica è tutto riciclo. E altre attività come questi folli dello SPRAR? Loro, l'idea è quella di collaborare insieme per fare sia l'attività agricola sul campo, appena troviamo dei terreni idonei, e poi quello di promuovere insieme a quello che è la loro attività nella ristorazione i prodotti agricoli delle aziende biologiche. Magari si creano delle occasioni di lavoro per i loro ospiti e possono rimanere a lavorare. Insomma, un sistema molto interessante. Poi l'idea mia, se da riusciamo, quello che avete visto voi, c'è l'interesse anche da parte di ragazzi italiani originari di qua del territorio di avvicinarsi a questa forma di agricoltura? Ma assolutamente, adesso c'è un ritorno all'agricoltura. Non considera che quando iniziamo noi c'erano 400 aziende agricole biologiche nel nostro territorio. Adesso, quanto tempo fa avete iniziato? 2004. Ah beh, quindi adesso sono più di 1500. Il dato ancora non è ufficiale perché la regione non ce lo trasmette, però noi insisteremo, ce lo faremo avere. Però sono più di 1500 adesso le aziende nel territorio del Cile. Considera che nel periodo di grande diciamo crisi le aziende biologiche crescevano a doppia cifra, e il trend è continuo, è costante, perché l'esigenza, la cosa importante è che in tanti adesso hanno capito che i problemi delle malattie più gravi derivano dall'alimentazione, perché l'alimentazione fatta con i prodotti, con derivati dell'agricoltura convenzionale fatta male, tu trovi i problemi. Glifosato ormai è certificato che provoca malattie, cioè noi l'avevamo già tolto di mezzo, solo che poi la Monsanto se è associata alla Bayer, la Merkel l'ha bloccata ancora, cioè questi pur di vendere per soldi insomma accettano di far morire le persone. Ovviamente l'unico modo che abbiamo è convertire l'azienda agricola dal convenzionale al biologico, in modo che non si usino queste schifezze. Questa è una cosa importante. Diciamo che il motore, la filiera parte dall'azienda agricola e arriva... Per avere un ambiente sano, avere cibo sano, avere un territorio attraente. Il biodistretto è una macchina da guerra incredibile per creare uno sviluppo sostenibile. Quello che dico è una... Anche... quello che fa il biodistretto è una politica ambientale, una politica per lo sviluppo del territorio sostenibile. Quindi quello che è la mia idea è quello che noi dobbiamo avere sempre più persone che entrano in questo sistema, in questo ordine di idee. Quindi cioè, c'è un movimento culturale. Un filo che va poi dall'azienda agricola a un'impresa come questa, un'impresa come questa, dove ci troviamo stasera con Emiliano, che invece dove loro utilizzeranno i prodotti del territorio, i prodotti biologici, i nostri supermercati, potremo creare delle vetrine alle aziende agricole, perché chi viene qui e mangia i ceci, allora avrà anche la possibilità di comprare i ceci di Cerale. E a Ceraso come vi hanno accolto con questa esperienza? Ceraso è divisa, perché noi non dobbiamo mai essere ipocriti, no? Quindi cioè, sicuramente è divisa, ma perché i luoghi comuni te lo chiedo perché cioè, è chiaro che voi avete aperto un ristorante multietnico a Ceraso, in un piccolo paese, in un posto molto bello, e quindi mi immagino che i discorsi possono essere... arrivando dal Ministero degli Interni, discorsi sulle chiusure dei ristoranti multietnici e dei negozi etnici nelle città, giornalisti che parlano in televisione del Couscous Clan che invade e rovina la cucina italiana, tutta una serie di discorsi negativi sugli stranieri che rubano il lavoro agli italiani, e voi mi sembra che qua, per chi la pensa in questo modo, siete diventate una conferma del fatto che qua ci sono gli stranieri messi a lavorare. Ci sono italiani stranieri, scusa, esatto, sono italiani stranieri messi a lavorare. Ci sono tante difficoltà, noi facciamo agricoltura, uno dei problemi principali in agricoltura è trovare mano d'opera. La mano d'opera straniera è quello che salva oggi l'agricoltura, condividiamo questo percorso, noi aderiamo come associazione datoriale a Copagri. La riflessione che si fa è questa, poi penso che stiamo portando delle opportunità, è un finanziamento ministeriale, sono fondi, evitando di raccontarci frottole, sono fondi che non potrebbero essere destinati ad altro, quindi non sono fondi che possono essere destinati alla sanità o altro, sono fondi europei destinati all'accoglienza. Parli di 300.000 euro all'anno, 900.000 euro in 3 anni, che ti ha permesso di far lavorare noi italiani con ristoranti, gli operatori dello SPRAR, più altri 2 nei ristoranti diventano 11, quindi tu oggi hai creato 11 posti di lavoro per italiani, e scusateci se abbiamo pensato anche a 3 beneficiari, cioè 3 beneficiari che hanno manifestato la volontà di rimanere su questo territorio, dove c'è un asilo che rimane aperto, anche perché ci sono i nostri bambini. Ma io penso che c'è stato questo elemento rispetto alla domanda che mi facevi prima, che sicuramente la presenza dei bambini ha diminuito la conflittualità, su cui i bambini sono stati tutti meravigliosi, sono un po' i bambini di tutti, quindi vengono... Beh, loro salveranno il mondo, penso, per il fatto che hanno... Io me lo auguro, cioè sia i bambini... Io notavo qui la sera dell'inaugurazione, dove nel giardino qui dietro, senza troppe chiacchiere, senza troppi problemi, c'erano bambini con ogni tipo di vestito, di colore della pelle, giocare assieme, non si pongono il problema. Quindi mi immagino che, diceva un grande musicista, un grande poeta, probabilmente arriverà il giorno in cui il colore della pelle conta quanto il colore degli occhi tra le persone. Bob Marley diceva questo in una canzone, e speriamo, no, che sia quello il... Speriamo sicuramente, io mi auguro che il colore degli occhi valga ancora qualcosa, perché ho gli occhi azzurri e qualche volta cioè, può servire soprattutto in età in età giovanile, insomma, mi hanno aiutato qualche volta. Il valore dello sguardo, a parte gli scherzi, guardate, questa è stata una settimana particolarmente felice, perché noi lavoriamo su un bene confiscato alla Camorra a Casetta, su due in realtà. Questo bene confiscato, che al centro del paese apparteneva a Abate, che è un killer di Camorra appartenente al cane ligato Rubrano, che ha commesso 115 omicidi. I genitori dei bimbi di Pignataro andavano a giocare nel campetto di calcio in quella villa, andavano in piscina in quella villa, quindi era normale giocare con i figli del boss all'interno della villa, dove c'erano queste mura di 3 metri. Abbiamo fatto i campi estivi nella cooperativa sociale, abbiamo fatto i campi estivi con i bambini di Pignataro. Noi ci occupiamo di salute mentale, abbiamo persone che stanno in base di salute, quindi percorsi di uscita, anche abbiamo anche contribuito ai percorsi di uscita dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Ci occupiamo di immigrazione, ci sono i nostri ragazzi immigranti che hanno terminato il percorso e che oggi sono nostri soci lavoratori, e questa è diventata la normalità, è una grande vittoria. Poi abbiamo avuto un'altra grande soddisfazione, abbiamo fatto in quella che viene definita la terra dei fuochi, con l'AS di Caserta sul bene confiscato, 120 persone che hanno potuto fare attività di prevenzione con i test, con prevenzione per il tumore del colon retto, con le visite dermatologiche e il PAP test. Le mammografie, visite gratuite, 120 visite in una sola giornata. Tra poco ripeteremo l'esperienza con il cardiologo, quindi il bene confiscato diventa veramente un bene di tutti, i cittadini se ne riappropriano e danno servizi. La stessa soddisfazione ho avuto con l'avvio di questo ristorante. La scommessa qui è più complicata, è complessa perché diciamo Ceraso non ha 200.000 abitanti che circolano, le persone le devi portare, però io sono fiducioso, se oggi voi venite da Fisciano, probabilmente domani qualcuno verrà da Agropoli, probabilmente dopodomani qualcuno verrà anche da Salerno, e io sono convinto che se ci aiutano persone tipo Emilio, persone del territorio, le straordinarie ragazze, perché non ce lo dobbiamo dimenticare, che il motore di questo progetto è vero, noi siamo la cooperativa che è venuta qui e ha vinto il bando di gara, poi ci sono persone come Teresa, Simona, che sono tutti i giorni qui a lavorare, le operatrici, sono le due sociologhe del progetto. Vi parlo di Teresa e Simona perché sono le persone a cui voglio più bene, perché sono state straordinarie, non me ne devono volere gli altri operatori, ma lo dico perché sono state il cuore di questo progetto, il motore. Qui loro nello SPRAR fanno anche corsi di italiano, poi sicuramente pure attività del genere aiutano, immagino, lo so, parlando con un cliente già per chiedere l'ordinazione. Forse uno si sente motivato in modo diverso. Assolutamente, però indipendentemente da tutte le questioni tecniche, dei servizi che tu devi rendere, la dinamica straordinaria che è capitata in questo paese è che si sono accolte le persone con un senso di famiglia, il che non va sempre bene, qualche volta bisogna essere tecnici nel fare le cose, perché quando ti fai carico emotivamente in maniera importante dei vissuti di persone, soprattutto se sono vissuti drammatici, rischi poi di poter andare in burnout. Invece arrivando a roba, perché noi qua siamo per sederci a tavola e per provare il menù, com'è stato? Per il menù com'è stato organizzato, io ti farei parlare con Francesco. Francesco vieni che dobbiamo chiedere roba importante. Lui è un italiano che lavora, quindi abbiamo anche italiani. Ciao Francesco. Ciao. E lui è anche dove sei tu? Novi Venia. Da Novi vieni qua per preparare il menù, a ideare con... Soprattutto per preparare la sala, per gestirmi la sala, poi c'è chi aiutare a preparare il menù, però non comunque con l'aiuto dello chef tutti insieme cercare di avviare questo. Stasera che cosa ci aspetta da mangiare? Abbiamo antipasti sia con prodotti locali che prodotti che vengono preparati, prodotti marocchini, diciamo così, un mix di primi differenti tra di loro, che varia dalla carne, dal pesce, anche secondi, che varia carne e pesce con aggiunta di secondi marocchini, comunque che sono molto speziati, sono differenti tra di loro. E poi ci sta Sami, che se ti fa piacere, che è il nostro ragazzo in sala, perché che sta facendo un tirocinio formativo, lui oltre a essere uno straordinario lavoratore è anche il tutor di Sami. Tu ti occupi della cucina pure della sala. Come funziona secondo te il menù con piatti diversi marocchini? Tu sei del Marocco? Sì. Almeno tu sei. Okay. È bene, una cosa è bene, solo per turisti però, perché qua. Beh, oddio, noi siamo di qua, quindi. Facciamo anche cucina cinese. Che può piacere. Cioè, bello. E tu da quanto tempo sei in Italia qua? 2 anni. 2 anni. E in. Marocco ti occupavi già di queste cose? Sei in Libia e sì, lì ti sei lavorato in ristoranti o in metro? Quindi stai imparando qui? Sto imparando qui. Pensi che può essere una cosa positiva, no? Se... No, va bene, per me. Mi piace, voglio solo imparare da lì. Ottimo, va bene. Emilio, tu che pensi di queste a livello di biodistretti, il couscous ruba il lavoro al fusillo? È un arricchimento. Cioè, no, noi parliamo tanto di dieta mediterranea, per cui limitarsi a queste restrizioni mentali veramente non è pensabile. Proprio esperienze come queste servono a far capire che il Mediterraneo è la nostra patria. Voglio certo. dire, girare il mondo forse sarebbe una cura da prescrivere obbligatoria per tutti. Se no c'è la possibilità che il mondo poi arrivi in un paese no il mondo di 2000 persone. Se no il mondo arriva da te. Esatto. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranierincampania.it. RAM vive all'interno di Impact, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.